Radio 24 Reportage. Liverpool, ripartire dai Beatles, di Sergio Nava. Fa un certo effetto viaggiare sulla prima linea ferroviaria nella storia mondiale, la Manchester-Liverpool, inaugurata nel 1830. Partenza da un binario secondario della veneristica Piccadilly Rail Station a Manchester, arrivo dopo un viaggio di soli 50 minuti a Liverpool Lime Street, cuore ferroviario della città dei Beatles. Il contrasto è immediato. La modernità di Manchester si scontra con una geografia cittadina decisamente trasandata, anche perché in rifacimento. Manchester has the man, Liverpool has the gentleman. Manchester ha la forza lavoro, a Liverpool ci sono i gentiluomini, dice un vecchio refrain, che meglio di ogni altro dipinge la rivalità storica tra le due città. Rivalità nata ai tempi del commercio del cotone. Al porto di Liverpool arrivavano i bastimenti carichi di merci, con i signori della città che commerciavano e il municipio che tassava il transito di quelle stesse merci verso Manchester, dove la classe operaia trasformava i materiali in prodotti finiti. È proprio qui a Liverpool che Radio 24 fa la sua nuova tappa nell'Inghilterra che cambia nell'anno elettorale. Liverpool is in quite a unique situation at the moment. Warren Bradley è l'energico council leader di Liverpool, nei fatti il sindaco. Liberal democratico in una città che alle elezioni nazionali resta una roccaforte laburista, Bradley ha saputo guidare Liverpool in una fase di trasformazione cominciata nell'ultimo decennio, nel corso della quale è stato finalmente arrestato il forte declino economico cominciato a metà del secolo scorso con il calo dei commerci portuali. Tutti concordano sul fatto che negli anni 90 Liverpool fosse un'altra cosa, decadente, sciatta e guidata da giunte laburiste rissose, ha cominciato ben dopo Manchester il proprio percorso di riqualificazione urbanistica. Negli anni ben 10 miliardi di sterline in investimenti sono confluiti in città, contribuendo alla sua rigenerazione. Liverpool si trova in una situazione particolare al momento. Il 2008 è stato un successo grazie all'anno della capitale europea della cultura, ma gli investimenti sono continuati anche dopo, non c'è stato un calo. Ok, alcuni piani di sviluppo si sono fermati, ma a livello generale Liverpool si è comportata molto meglio rispetto alle altre città britanniche. Secondo un documento che abbiamo consegnato recentemente al governo, ci confida Bradley, il porto continua ad essere un settore importante. Il traffico merci in tonnellate è superiore a qualsiasi precedente storico. Continuiamo dunque a vederlo come un superporto. Anche la cultura e il tempo libero si sono rivelate brand importanti per far progredire la città. Come destinazione turistica siamo cresciuti probabilmente più di ogni altra città europea negli ultimi 3-4 anni. Abbiamo anche sviluppato un forte settore della conoscenza grazie alle nostre università, un settore che fornirà molti posti di lavoro in futuro. Queste sono le tre aree su cui si fonda il futuro di Liverpool, sottolinea Warren Bradley. Bradley più tardi ammette che la crisi in effetti c'è, si vede nei numeri delle attività legate al tempo libero o del commercio, ma non è il momento di alzare il ponte levatoio, è il momento di investire, aggiunge. Lascio il suo ufficio e mi avventuro per una passeggiata a Church Street, il cuore commerciale di Liverpool. Di giorno la strada è un fiume di persone che costeggiano i negozi aperti fino alle 6 del pomeriggio. Poche centinaia di metri più in là, nel cuore economico della città, si lavora al suo sviluppo e alla sua rigenerazione. Liverpool Vision was created. Ian McCarthy è il direttore dei servizi corporate per Liverpool Vision, l'agenzia cittadina nata per guidare il rinascimento della città, sia a livello urbanistico sia a livello economico. Il focus principale si è fin dal principio concentrato sull'area storica del porto, mi spiega McCarthy. Abbiamo creato strutture per facilitare il settore del turismo e del tempo libero. In secondo luogo abbiamo sviluppato il cuore commerciale del centro, creando spazi per la finanza, i servizi professionali e gli affari. Infine ci siamo concentrati sulle infrastrutture per garantire un buon network di collegamenti e zone a utilizzo industriale. Ci sono numerosi settori nei quali Liverpool eccelle, parliamo soprattutto di finanza e servizi professionali. Anche la biomanifattura è un settore forte, senza contare l'istruzione col polo universitario. Infine pure la cultura e il settore creativo stanno nuovamente tornando in auge, dice. Orgoglio e passione, valorizzazione, fiducia e amore, immaginazione e innovazione. E questa è la formula magica alla base del successo di Human Recognition System, una ormai ex startup tecnologica fondata a Liverpool nel 2002 da un ex consulente di Accenture. Human Recognition System impiega 34 dipendenti, per la maggior parte trentenni. Il più anziano, pensate, ha 45 anni. Il fatturato annuale è di oltre 4 milioni di sterline. We are a biometric and identity management consultancy. Siamo un'azienda di consulenza consulenza nel settore della biometrica, mi spiega Louise Rooney, direttrice delle risorse umane. Facciamo sì attività di consulenza, ma produciamo pure dei nostri software, utilizzando l'hardware dei clienti per integrarlo con il nostro software e produrre soluzioni adatte ai loro bisogni. Quest'ultimo settore è quello maggiormente in crescita. Tra i clienti figurano il settore edilizio e il Ministero della Difesa, mi confida. Liverpool, sfidando ogni credenza comune, si sta rapidamente trasformando in un importante centro finanziario. Un recente articolo del quotidiano francese Le Monde, intitolato Il miracolo di Liverpool, sottolineava come la patria dei Beatles sopravanzi ormai Manchester ed Edimburgo nella gestione finanziaria dei grandi patrimoni, con 12 miliardi di sterline in attivi da investire. Davanti resta solo la City di Londra. Paul Chavas è Chief Operating Officer a Rathbones, una delle principali società finanziarie di Liverpool. Non nacque così, però, mi spiega. Rathbones avviò le proprie attività nel 1742 come società di commercio del legname. Poi acquistò delle imbarcazioni, avviando una propria attività commerciale, fino a diventare, ma solo più tardi, una compagnia finanziaria. Attualmente Rathbones si occupa del private wealth management, parliamo quindi della gestione dei grandi patrimoni. Liverpool ora è un centro finanziario grazie anche alla sua storia, mi spiega Paul Chavas. È una città che attrae il business, offre una qualità della vita migliore e meno cara rispetto a Londra. Liverpool, secondo me, è la quinta città in Gran Bretagna intesa come centro finanziario, azzarda Chavas, sfidando i recenti studi. Ma poi corregge il tiro. Se parliamo però solo di gestione dei grandi patrimoni, allora svettiamo anche sopra Manchester. Dal punto di vista finanziario, la gestione dei grandi patrimoni in cui noi operiamo ha però sofferto meno degli altri la crisi. Questo grazie anche a una gestione più oculata rispetto a quella londinese. Siamo meno innamorati dei fondi speculativi, mi confida Chavas. Dal fiume Mersey, lo skyline del centro di Liverpool appare nitido. In una giornata di sole, come quella in cui ci troviamo a navigare tra le due sponde, osserviamo quello che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità. La serata è calda, il traghetto viaggia veloce, trasportando più turisti che pendolari. Mi godo le tre grazie che dominano il porto. Beh, qui le tre grazie non sono esattamente delle donne, ma sono gli edifici storici del Royal Liver, del Cunard e del Port of Liverpool. Circa 750.000 pendolari usano ogni anno il traghetto, afferma a Radio 24 Neil Scales, amministratore delegato di Mersey Travel, la compagnia dei trasporti cittadina. 100.000 persone usano la ferrovia ogni giorno, 500.000 gli autobus, aggiunge prima di osservare. Qui a Liverpool non siamo particolarmente legati alle auto, la gente usa più i mezzi di trasporto. Nell'ultima decade 2 o 3 miliardi di sterline sono state investite a Liverpool, qualcosa che ha dato nuova fiducia ed energia alla città e ci ha fatto affrontare senza troppi patemi la crisi economica, conclude Scales. Il prossimo anno aprirà a Liverpool il più grande museo mai costruito da oltre un secolo in Gran Bretagna. Si chiamerà Museum of Liverpool, costerà 72 milioni di sterline e la sua struttura in vetro e pietra di Jura ha già rivoluzionato il profilo visivo della città. David Fleming, direttore del Museum of Liverpool, mi spiega che prima esisteva solo un piccolo museo sulla storia di Liverpool. Abbiamo quindi colto al volo l'opportunità di usare dei fondi messi a disposizione per la rigenerazione della città per costruirne uno nuovo. Nel Museum of Liverpool vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere sulla rivoluzione industriale e sullo sviluppo dell'impero britannico. Ve lo racconteremo attraverso gli occhi della nostra città. Senza Liverpool la storia della rivoluzione e dell'impero sarebbero state molto diverse e viceversa. L'intenzione più o meno esplicita, confida Fleming, è quella di rileggere criticamente la storia dell'epoca imperiale, un'epoca poco esplorata, con luci ma anche molte ombre. Al Cavern Club in Matthew Street la serata si scalda presto, Marcus Kyle e il suo Imagine The Tribute suona Hey Jude. Una piccola folla di turisti danza al ritmo di uno dei più noti successi dei Beatles. Al Cavern Club accorrono da tutto il mondo, non solo per assistere alle esibizioni live, ma anche per poter suonare in quella che è la vera mecca dei fan dei Beatles. Il suo fascino è anche architettonico, è a tutti gli effetti una caverna scavata nelle fondamenta di un edificio. Per accedervi occorre scendere tre rampe di scale, entrando in un mondo a parte. Qui i Beatles suonarono 272 volte. Oggi il Cavern Club, che vanta 53 anni di storia, è un club unico, un mix tra attrazione turistica e luogo dove si fa ancora buona musica dal vivo, sottolinea John Keats, events and marketing manager del locale. Keats è appena emerso dalle estenuanti audizioni per un nuovo musical sui Beatles, attualmente in fase di organizzazione. Il club è ancora enormemente legato al mito, ammette, ma qui hanno suonato tutti i grandi nomi della pop music degli ultimi 50 anni, ci tiene a precisare. La fama del locale è tale che Keats riceve 150 richieste alla settimana da parte di band musicali che vogliono suonare al Cavern Club. Molte, rivela, arrivano anche dall'Italia. The Beatles Story è un altro tassello praticamente irrinunciabile per chi arriva a Liverpool sulle tracce del mito della band di John Lennon. Un museo completo, una specie di glossario dalla A alla Z del più famoso gruppo inglese, collocato in uno dei settori meglio riqualificati della città, l'Albert Dock sul fiume Mersey. Il museo ripercorre tutta la storia della band, dalla nascita dei suoi componenti nell'Inghilterra assediata dai nazisti fino alla dissoluzione dei Beatles. We have over 200,000 visitors a year. Ogni anno riceviamo oltre 200,000 visitatori, il 60% dei quali stranieri, mi spiega Jerry Goldman, managing director di The Beatles Story. Noi non siamo un museo nel senso tradizionale del termine, qui proponiamo ai visitatori un vero tuffo nel passato. Potete camminare nelle strade della Liverpool degli anni 60, anche il nostro tour audio è diverso. I narratori sono la sorella di John Lennon, Paul McCartney e altri protagonisti dell'epoca. Beatles e Liverpool Football Club. È questa la strana accoppiata che in piena crisi aiuta a mantenere la città a galla, segnalandola sulla mappa delle più frequentate destinazioni turistiche britanniche. La ripresa economica e il futuro di Liverpool, è proprio il caso di dirlo, passano anche da qui. Musica e calcio. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.